E al telefono abbiamo questa sera Carla della Casa dei Diritti Sociali per raccontarci quello che è successo martedì, un fatto abbastanza grave quando la polizia si è presentata alla loro associazione che da tempo, da anni, lavora con migranti, spesso e soprattutto senza permesso di soggiorno, una chiara provocazione per poter identificare a questo punto più persone possibile e dare anche un segnale, se non fosse chiaro, anche a chi lavora nell'associazionismo, qual è il clima nei confronti degli immigrati appunto in questo paese. Sì, martedì sera, il 23 novembre, sul tratto di Via Giolitti che va più o meno da metà della stazione Termini fin sotto nostra sede, che la nostra sede diciamo è all'altezza del tunnel che collega Giolitti a Marsala, c'è stato un grandissimo dispiegamento di forze dell'ordine con 14-15 volanti, poliziotti in borghese in divisa che gironzolavano, unità cinofile nella parte alta diciamo di Via Giolitti. Verso le 5 sul nostro ballatoio, proprio di fronte alla nostra sede, sono comparsi cinque poliziotti, proprio lì fuori dalla nostra porta. E per accedere da noi ci sta dalla strada una scaletta che porta su per il ballatoio e ci stava anche lì dei poliziotti che fermavano le persone che salivano su per le scalette e fermavano semplicemente delle persone evidentemente straniere. Credo che la questura ci conosca bene, visto che è almeno dal 1998 che noi abbiamo lì la nostra sede. Ci occupiamo di tutte le persone, chiamiamole povere di diritti, che siano straniere, italiane, senza distinzione di sorta. Oltre ad avere lo sportello di orientamento dove ci aiutano molti volontari professionisti, abbiamo anche una scuola di italiano L2, frequentata anche lì, siccome è a titolo gratuito, è frequentatissima e frequentata da tutti. E alle 5 in piena attività, tutta la sede della scuola è stracolma di persone e anche lì i poliziotti facevano, come si dice a Roma, capocella per controllare chi c'era, chi non c'era, che cosa stava accadendo. Un nostro operatore è uscito per chiedere alla polizia che cosa stava accadendo, la polizia ci ha risposto che era una normale operazione di controllo. E a noi tanto normale comunque non ci sembrava. Visto che non era mai successo, tra l'altro, che si affacciassero proprio direttamente dentro all'associazione. Dentro l'associazione no, c'è stata una grande retatona a settembre, sempre con le stesse modalità, retate che vengono definite antidroga, per cui vengono controllati e chi non ha i documenti, siccome lì hanno sempre un grande polmone, vengono caricate sul polmone e poi portate chiaramente al fotosegnalamento, eccetera, eccetera. Comunque questi poliziotti si sono affacciati da noi, chiarendo che non potevano entrare, visto che insomma non potevano entrare, ci hanno chiesto se all'interno ci fossero altri stranieri, chiedendoci di farli uscire per identificarli. Noi chiaramente non l'abbiamo fatto, abbiamo chiuso la porta e nel frattempo abbiamo avvisato anche amici e colleghi che ci vengono a dare una mano come gli avvocati. Un pochino è arrivato un nostro avvocato volontario che ha cominciato a interloquire con i poliziotti dicendogli che non gli sembrava carino, insomma, opportuno che i poliziotti stavano proprio fermi di fronte a un'associazione del genere. E loro, insomma, si sono fatti un po' una chiacchiera, dice. E dopo una decina di minuti che hanno avuto questa conversazione con l'avvocato sono andati via, cioè si sono allontanati nell'altro tratto di strada, per cui sotto da noi, che noi siamo in alto sul ballatoio, sotto sulla strada c'erano ferme quattro volanti. Queste quattro volanti poi si sono spostate ed è rimasta soltanto una volante un pochino più in là, si sono spostati da sotto le scalette e sono andati a fare le operazioni, diciamo, nell'altro pezzo di strada. Senti, ma c'è stata qualche conseguenza per le persone identificate o fermate, oppure alla fine niente, è stata soltanto una prova muscolare e Ad un chiaramente anche certo punto un'operazione c'era poi. il polmone che era fermo sull'altro tratto di strada pochino avanti e come fecero a settembre, riempiono il pullman e portano via tutto. Cioè, abbiamo voluto manifestarlo e comunicarlo in giro perché ci è sembrato appunto un fatto grave. Cioè, io non sono una paranoica e non ho mania di persecuzioni, ma certo che se la polizia continua a sostare di fronte alla nostra sede. Sì, no, assolutamente, mi sembra abbastanza chiaro che il segnale sia per chi viene da voi a chiedere assistenza, ma anche per chi lavora poi nel sociale e con gli stranieri, in questo caso il messaggio appunto di una certa comunque precarietà. Perché poi, insomma, a noi è sembrato veramente un intervento contro l'immigrazione, anche per, ma non solo perché fermavano solo appunto le persone straniere e facevano storie pure chi non aveva il permesso di soggiorno dietro, ma girava solo con la fotocopia o con la carta d'identità, ma perché, come abbiamo mandato in giro anche per email con una sorta di comunicazione che abbiamo fatto a tutte le persone a noi conosciute, sembrava tesa ad annullare una zona franca che è la nostra sede, che è una sede appunto di dialogo interculturale, una struttura che promuove continuamente la protezione delle persone povere di diritti.